later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli l'umore generale è nero tendente al nerissimo, Kappa e Drago diventano chiocce. Polastri. Ehi. Pollo in sbattimento. Oh, qual buon vento. Beh, buon vento nessuno. Senti che puzza. Certo che questo pollo è una bella sagoma, è una battuta dietro l'altra, così. È comico. Beh, comunque, vi devo subappaltare un lavoro, eh. No, no, non abbiamo tempo, dai. Ma dai, facile, no? Che lavoro è? Dovete fare la babysitter dei pulcini, mentre io riparo lo stato generale, no? Guardate che carini che sono, non li vedete? Pulcini? Ma di chi sono questi pulcini? Ma di una mia amica, lei ha un impegno interrogabile. Con chi? E con la morte. E quindi dobbiamo fare i babysitter a una nidiata di orfani. Ma non è che poi ce li affidano tutti a noi, poi noi rimaniamo fregati, dobbiamo far da papà, insomma. Ma no, è solo una questione di minuti, no? Poi ci penso io dopo. Ah, vabbè, quindi dopo ci pensi tu, quindi tu da oggi sei il papà di una nidiata di pulcini. Beh, insomma, diciamo che poi troverò il modo di disfarmi, no? Ma come? Ma cosa dici, disfarti? Eh sì, eh? Oh. Io non sono mica adatto, no? Beh, ma scusa. Io poi già ho tutto il mio da fare, vado a Ratarek, e poi seconda battuta c'è anche Joao, Ma io ho fame. Joao, ma hai mangiato finalmente o sei sempre a digiuno? No, sempre a digiuno, eh. Ma perché, scusa, poverino? Vabbè, tanto ormai abbiamo appurato che lui sopravvive anche senza mangiare, quindi, eh. Ma allora è un miracolo! Un miracolo! Un miracolo! Apriamo subito 10.000 chioschetti senza licenza che vendono souvenir di Joao il miracolato come a San Giovanni Rotondo. Allora, cos'è sta cagnara? Vabbè. Non cambiamo discorso, Vabbè. Allora, sti pulcini qui, li guardiamo o no? Ma vabbè. No, non sappiamo come si fa. Per quello non c'è problema. Io vi chiudo quei pulcini sotto la gabbia, no? Quella per le chioce. E voi li tenete d'occhio, no? Sì. E poi se hanno freddo li scaldate voi. Sì, ma e come li scaldiamo? E come? Accovacciandovici sopra, no? Però senza schiacciarli, No, ma se mi accovaccio io, il problema dei pulcini da accudire si risolve in un attimo. Faccio 40 hamburger di pulcino e via. Allora sono tranquillo. Oggi le chiocce siete voi, Va bene? Caro Apelle, come ti sei permesso di fare una palla con la nostra pelle, sulla nostra pelle? Adesso... Cari pesci, perché venite a galla per vedere questa bella palla fatta da pelle? Figlio di Apollo, io lo so che un pollo mai siederà tra gli dei dell'Olimpo e mai farà una palla di pelle con la pelle. Perché un pollo per sempre pollo resterà, resterà. Yes, it's cruel. Oh, yes, it's cruel. Oh, yes, it's cruel. La fabbrica di polli! No, attento! Attento, K, vedi? Drago, attento a quello, è aiuto, quello, dove, vedi che scappano da tutte le parti. Però anche tu, cerca di far qualcosa, no? Vabbè, ma io devo far fare il routine a questo qui. Oh, signore. Fai il routine, dai. Bravo, bravissimo. Scusa, capa, ma non dormono mai questi? No, tutti insieme mai, e questa è la fregatura del pulcino, sì. Arrivano dei DJ! Tarek, via di qui, dai! Tu e la tua banda di malavitosi non potete stare a contatto con dei pulcini così piccoli. Via, show! Sì, Baby Gang. Baby Gang, vedete pulcini, questo è Tarek. Tarek. Sembra un pulcino anche lui, ma invece ha 28 anni, anzi quasi 29, vero Tarek? Quasi 29! Ecco. Quasi 29. E nella vita Tarek non ha mai combinato nulla di buono ed è stato la disperazione della sua famiglia. Eventi luttuosi hanno portato alla deportazione dei suoi genitori, poverino. E Tarek è stato affidato al famoso polno in sbattimento, lo stesso al quale siete stati affidati voi. Mi capite quando parlo? Luttuosi, sapete cosa vuol dire? Ma voi non seguirete l'esempio di Tarek, non sceglierete la via del crimine. Vero, pulcini? Ma quali orologi, Tarek? Qui non c'è niente da rubare. Questi pulcini sono appena usciti dall'uovo e non hanno niente da offrire, ok? Dai, Tarek, vatti a fare una pasta asciutta e lasciaci lavorare, su. Pasta asciutta! Sì, pasta asciutta, Tarek, pasta asciutta. Pasta asciutta! Il richiamo della pasta asciutta! Pronto? Vabbè, amministratore, comunque... Pronto, sì. Mi puoi dire ancora velocemente com'è andata l'ultima riunione del consiglio di amministrazione? Beh, sì, è andata abbastanza bene. Ne ho licenziati 6, eravamo in 7, sono rimasto solo io. Ha licenziato quelli che erano con lei in consiglio? Sì. È come Fidel Castro, cioè... Un po' mi ispiro, sì, mi ispiro a Fidel. Io nel mio, ho un Fidel Management Theory, che ho discusso, tra l'altro ho avuto il privilegio e l'onore di discutere personalmente con lui. Ma no. Qualche anno fa. Con Fidel Castro? Sì, perché io mi confrontavo e gli dicevo: Fidel, tu sei uno che, insomma, col capitalismo non è che va molto d'accordo, però io, uomo d'azienda, noi dobbiamo confrontarci in maniera seria. E allora ce la siamo raccontata su, lui fumava sigaro, io fumavo, vabbè. E quindi mi sono fuso un po' della sua ideologia, del suo pensiero, con il mio. E ho inventato questo Fidel Management Theory. La fabbrica di polli. Colastri, i pulcini sono stati bravi o no? Beh, insomma, abbiamo dovuto nutrirli, fargli fare il rottino. Ah, ecco, questo non l'avevo ancora fatto. Ecco, tenerli a bada e poi cantargli la ninna nanna. Come minimo adesso io e Kappa ci meritiamo una babysitter a testa per il resto della giornata. Sì. Sì, vabbè, ho capito. Se fosse così semplice trovare delle babysitter ancora vive, secondo voi io chiamiamo voi due a guardare i pulcini stanotte? Vabbè, diciamo che se fosse semplice trovare delle babysitter ancora vive, te ne prenderesti una per te. No, ma per lui ci vanno le galline badanti, altro che babysitter. Ha 45 anni. 44! Sì, vabbè, però sei entrato nei 45. Vabbè, ma cosa c'entra? Se morissi oggi, sul manifesto scriverebbero 44 anni, no? Che cosa succederà adesso? Il manifesto a morto del pollo in sbattimento recherà davvero la scritta 44 anni? Ma se il pollo è ancora vivo, perché dovrebbero stampare il suo manifesto da morto? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo cimiteriale allestimento de... La fabbrica di polli produce... La Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com. Questa triste atmosfera è per commemorare la cara memoria del pollo in sbattimento. Io sono vivo. Tutti lo conoscevamo, era un'anima pura e candida e non ha mai fatto male a nessuno. Infatti sono qui. Povero pollo in sbattimento, cosa possiamo fare noi per la sua anima se non pregare? Spera. Prega, perché adesso do due roccolate. Uè, io sono qui. Aia, aia. Spera. Yeah.